la prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Ho un passato ingombrante. Per metterlo da parte e pensare al futuro ho dovuto usare 5 grandi casse di legno. In un lavoro meticoloso ho archiviato 96 kg di atti giudiziari, migliaia di lettere, telegrammi, centinaia di articoli di giornale. Adesso le 5 grandi casse di legno stanno in cantina. Conservano la documentazione dei miei ultimi 18 anni di vita. Quasi metà della mia esistenza. Questa è la prima volta di Massimo Carlotto. Una prima volta che ha il sapore di un giallo, solo che è una storia vera e ha per protagonista un ragazzo di 19 anni. This is the first day of my life. Swear I was born right in the doorway. Questa che vi raccontiamo è la versione di Carlotto. Tutto ha inizio a Padova nel 1976, è il 20 gennaio. Carlotto, studente di liceo, militante di lotta continua, ha 19 anni. Carlotto sente delle grida provenire dallo stabile in cui vive la sorella. Entra dal portone. Senza pensare sale di corsa le scale ed entra in un appartamento dove giace il corpo agonizzante di una ragazza di 24 anni, colpita con 59 coltellate. Carlotto cerca di aiutare la ragazza, poi, preso dalla paura, fugge. Andrà da solo dai carabinieri per testimoniare, ma verrà fermato con l'accusa di omicidio. Finirà in carcere. Nel primo processo viene assolto per insufficienza di prove, ma viene condannato a 18 anni di reclusione dalla Corte d'Assise d'Appello di Venezia e la pena è confermata dalla Corte di Cassazione. Carlotto fugge, prima in Francia e poi in Messico. Dopo 3 anni di latitanza viene catturato dalla polizia messicana e torna in Italia. Dopo un lungo iter giudiziario, l'opinione pubblica si attiva a favore di Carlotto e nel 1993 il Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, gli concede la grazia. Una storia raccontata dallo stesso autore nel libro, il suo primo libro, Il Fuggiasco, poi diventato un film. Allora, perché non sei venuto subito da noi? Sono scappato, ho avuto paura. Quando state tutti insieme non avete paura però, siete come i leoni. C'era un signore con un cane, ci siamo scontrati, lui mi ha visto. Cercatelo, io non so altro. Com'era questo cane? Era un cane, non me lo ricordo. Voce, Carlotto, voce! Era un cane piccolo, era un cane... Non sì, lo so. Ma piccolo come? Carlo, facciamo ambrezzi, ya! Carlotto, devi parlare, devi parlare. Noi siamo qua fino a domani mattina, non abbiamo impegni, capisci a me? Ricominciamo. Come ti chiami? Mi chiamo Massimo Carlotto. Ti droghi? No, non mi drogo. Vabbè, Carlo, fai politica, no? Io sono venuto qua solo per testimoniare. Che dobbiamo fare? Ricominciamo. Scusate, cosa volete? La verità vogliamo, Carlotto, solo la verità. Ma io la verità ve l'ho detta. Non c'entro niente in questa storia. Ragazzo, tu non hai capito che si sei messo in una brutta posizione. Ricominciamo. Come ti chiami? Quanti anni hai? Ti droghi? Fai politica, eh? Sei un terrorista. Lotta continua, terrorismo, è chiaro questo. Tu sei rosso, come il sangue di quella povera ragazza. Quella storia che ha cambiato il corso della vita di Massimo Carlotto e che lui ha sentito il bisogno, pur facendo fatica, di mettere nero su bianco. Ma è stato faticoso, lo trovavo necessario, ma soprattutto è stato faticoso trovare la chiave giusta. Poi quando ho capito che il modo migliore per raccontare la mia storia era l'autoironia, allora tutto è diventato più semplice. Devo dire che in certe parti mi sono anche divertito. Jimmy della Collina lo avrebbe mai scritto se non avesse vissuto tutto quello che si è trovato a vivere quando aveva 19 anni? Ma penso di no, però Jimmy della Collina nasce dal fatto che io frequentavo e frequento tuttora questa comunità di recupero. Io trovo straordinario il metodo di lavoro, che è un metodo di lavoro che porta a successi straordinari, devo dire che sono rimasto affascinato sia dai ragazzi ma anche sia dagli operatori e dalla loro proprio abnegazione nei confronti di dover recuperare a tutti i costi questi ragazzi una vita normale. Secondo lei è una cosa che va fatta, cioè fino alla fine tentare di recuperare? Sì, assolutamente sì. Non bisogna mai arrendersi. È un'esperienza che io poi ho avuto di riflesso quando ho lavorato con una struttura che si occupava proprio del recupero e ho visto che se si ha la volontà alla fine si vince anche su questo terreno. Lei oggi vive a Padova, è sposato, ha figli? Sì, mi divido tra Padova e Sardegna, sono sposato e ho un bambino di 9 anni. E beh, l'avventura di essere padre è un'avventura straordinaria, mi ha cambiato proprio la qualità della vita, nel senso che credo di essere un uomo molto più felice adesso. Massimo Carlotto è uno scrittore famoso praticamente in tutto il mondo. È ancora un ragazzo quando la sua vita prende una piega drammatica. Questo inizio, questa svolta nella vita di questo studente liceale avrebbe potuto prendere una china terribile. Invece, la vita di Carlotto, quella china, non la prende. E, uscito dal carcere, non smetterà mai di scrivere. Il suo ultimo libro si intitola Respiro corto e, guarda caso, si occupa di criminali ancora una volta. Ma questo libro nasce girando per università europee, per delle conferenze, e scoprire che per la prima volta nella storia dobbiamo fare i conti con il sapere applicato in maniera massiccia al crimine, nel senso che i figli mafiosi vanno all'università, continuano la strada dei padri e quindi sono molto più pericolosi perché appunto sanno, conoscono e soprattutto quando studiano economia poi fanno i master in mercato immobiliare, riescono a incidere in maniera molto particolare proprio sul divenire del crimine. Quindi sono personaggi molto razionali che agiscono male, cioè quindi non rispettando l'etica, però con una razionalità rispettando in qualche modo le leggi. Loro cercano di essere meno invasivamente illegali dei padri delle organizzazioni criminali classiche, nel senso che sfruttano di più quelle che sono le possibilità che offre oggi l'economia e che offrono i mercati, e quindi sono apparentemente meno pericolosi, ma in realtà riescono, voglio dire, a superare i padri in quanto immaginazione criminale. Senta, questo romanzo è l'ultimo romanzo, ma è anche l'ultimo di una serie di successi editoriali. Io le chiedo, quando ha iniziato a scrivere e perché? Io ho iniziato a scrivere, ho pubblicato nel 1995, nel 1994 ho scritto un romanzo in parte autobiografico in cui raccontavo un pezzo della mia vita. Questo romanzo poi ha avuto successo e quindi ho continuato a scrivere. Senta, lei è nato a Padova nel 1956, com'è stata la sua infanzia? La mia infanzia è stata, devo dire, un'infanzia felice, vissuta in una bella città, in un bel quartiere, è stata un'infanzia molto classica, nel senso patronato, boy scout, poi verso la fine delle medie ho conosciuto la politica e poi è stata tutta politica fino alla fine del liceo. Quella di Carlotto è una storia di salite faticose, un percorso che si fa morbido nel momento in cui lo scrittore ottiene la grazia, un percorso in cui sarà sostenuto da tanti amici e conoscenti. È anche grazie a loro che Carlotto potrà tornare libero e festeggerà con la donna che lo ha amato così la libertà, correndo in bicicletta e finendo su una spiaggia a gridare il suo nome, come racconterà nel libro Il Fuggiasco, poi diventato film. Ale, io sono Massimo Carlotto! Sono Massimo Carlotto! Io sono Massimo Carlotto! Massimo Carlotto! Oggi Massimo Carlotto non è solo il protagonista del caso Carlotto, non è soltanto l'autore di numerosi libri, veri successi editoriali. Carlotto è il padre di un bambino con il quale ha scritto anche un libro. Con mio figlio ho scritto un libro per bambini e questo nasce poi da un percorso tutto nostro, nel senso che io gli raccontavo alla sera una storia molto sviluppata con tutti i miei personaggi. Un giorno lui mi ha detto: sì, però qui in questa storia non ci sono bambini. Io ho detto: vabbè, allora mettiti tu i bambini. E da questo è venuto fuori un libro ed è stato una bellissima esperienza. E l'avete scritto assieme? Sì, sì, è stato difficile, però è stato, devo dire, formativo per entrambi. Io ho imparato un sacco di cose. E poi abbiamo avuto questa esperienza straordinaria che i disegni li ha fatti Tini Mantegazza, che è il papà di Dodò, che è un personaggio molto amato dai bambini. E quindi abbiamo lavorato in tre su questa cosa ed è stata una specie di allegra brigata che si è mossa sul terreno della favola. Se lei non avesse scritto, che lavoro avrebbe voluto fare? Il farmacista. Come mai? Perché secondo me è un lavoro pacato, paziente, senza grandi scossoni. Sì, da piccolo ho deciso di fare il farmacista, poi la vita mi ha portato altrove. Senta, lei crede che certe svolte della vita, anche se drammatiche, poi sorprendono perché lasciano qualcosa di buono? No, non sono convinto di questo, nel senso che io ne avrei fatto volentieri a meno e secondo me il buono non vedo nulla, però dire, ma magari il buono è che ha cominciato aiuto a scrivere. Sì, no, ma sono contento, magari l'avrei fatto lo stesso, non lo so, la scrittura è qualcosa che ti si muove dentro, è una cosa strana. Vivere è passato tanto tempo, vivere. La prima volta termina qui. L'appuntamento per la prossima settimana, sempre di domenica, sempre dopo il giornale radio delle 13. Grazie per essere stati con noi. Potete riascoltarci andando sul sito di Radio 24, scriveteci all'indirizzo laprimavolta@radio24.it. Buona giornata a tutti, da Cristina Carpinelli. Vivere è passato tanto tempo, vivere è un ricordo senza tempo, vivere è un po' come perder tempo, vivere e sorridere dei guai, così come non hai fatto mai, e poi pensare che domani sarà sempre meglio, oggi non ho tempo. Oggi voglio stare spento. Oggi voglio stare.